Letture di Radio 24. Per assicurare che intende mantenere l'integrità del marchio italiano, Ren Jiangxin, presidente della CEM China, che lo scorso mese di aprile ha raggiunto il 30% di quote Pirelli, ha detto: «Gli spaghetti italiani non possono diventare noodle cinesi. Sono simili, ma non saranno mai uguali. Ma non ci sono solo aziende cinesi che acquistano quelle italiane. Sono in continuo aumento, infatti, anche le aziende cinesi che attirano verso la Repubblica Popolare Cinese i top manager italiani. Prima di trasferirsi, è però opportuno capire come si lavora nelle grandi aziende cinesi, per evitare gaffe e errori nei rapporti con colleghi e superiori». La prima cosa da tenere presente è l'importanza delle gerarchie e l'assoluta centralità del ruolo del capo. In un'azienda cinese, il capo analizza i problemi e detta le soluzioni. I dipendenti si limitano a eseguire gli ordini, dice James McGregor, autore di One Billion Customers. A qualcuno potrebbe sembrare un atteggiamento un po' fantozziano verso il mega direttore, ma in realtà il rispetto e la deferenza verso l'autorità hanno radici profonde. Risalgono all'importanza data dalla dottrina confuciana ai rapporti gerarchici, come quelli tra sovrano e suddito o tra padre e figlio, che mantengono ordine e armonia nella società. Come si traduce questo oggi nella vita d'ufficio? In una riunione, per esempio, è quasi impossibile che i partecipanti intervengano o facciano osservazioni. Non si parla se non si è interrogati dal capo. Altri rapporti da coltivare, oltre a quelli col capo, sono quelli con la rete personale di amicizie e relazioni. È ciò che va sotto il nome di Guanji. Avere un buon Guanji, un forte network di rapporti sociali, al di fuori dell'ambiente di lavoro, è spesso il segreto per chiudere un buon affare. La regola vale anche per gli stranieri. Prima fai amicizia, poi pensa agli affari. Ai cinesi piace chiacchierare e divertirsi. Vogliono sapere qualcosa di più della persona con cui stanno parlando. Per questo i primi incontri d'affari difficilmente producono risultati. Non è raro che i venditori invitino a cena i potenziali nuovi clienti prima di parlare di business, conferma James Chan, presidente di Asia Marketing and Management, società che aiuta le aziende statunitensi a fare affari in Cina. La mancanza di discussione è legata anche a un altro importante principio della cultura cinese: mantenere la faccia, in cinese mianzi. La faccia è legata al prestigio di una persona e alla sua posizione nel gruppo. Per non farla perdere, non si fanno commenti in pubblico e si evitano i conflitti. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Federico Bone e Luca Castelli In ufficio a Pechino, dal numero di maggio del mensile Focus. Scegliete il libro. Mettete tra una pagina e l'altra le scene del film. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Just for one day. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20:15. Su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. Letture di Radio 24. Non è piaciuta a tutti la contromanifestazione di domenica scorsa, quando circa 20.000 persone hanno sfilato per le strade di Milano, devastata due giorni prima dai Black Bloc, per ripulire la città al grido di «Nessuno tocchi Milano». Qualcuno si è chiesto dove fossero tutti quanti, soprattutto i VIP, quando due giorni prima i violenti dei centri sociali di tutta Europa agivano indisturbati. E c'è chi ha criticato la strumentalizzazione politica che è stata fatta di questa parata. Soprattutto perché in testa al corteo c'era il sindaco di Milano, Giuseppe Pisapia, che alla vigilia della May Day Parade, quando diversi violenti erano stati fermati e poi subito rilasciati, aveva dichiarato: «Manifestate, ma se qualcuno vuole usare violenza o vuole devastare la nostra città, isolatelo». ma che la manifestazione sarebbe sfociata in violenza era abbastanza prevedibile, visto quello che era successo nei giorni precedenti, come racconta Carlo Bonini sulla Repubblica del 3 maggio. Accade che i brogliacci della polizia di prevenzione documentino come, tra la mattina del 28 aprile e la sera del 30, il lavoro di indagine per togliere dalla strada chi sulla strada cercava la guerra sia stato di fatto annichilito, consentendo a un piccolo esercito di francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi e a qualche decina di neri di casa nostra di passare indenni attraverso la rete di controlli in cui pure erano rimasti impigliati. È una sequenza istruttiva. La mattina del 28 aprile, la Digos di Milano fa irruzione in 4 stabili occupati da militanti della cosiddetta area antagonista. Le informazioni raccolte dal Viminale e condivise con le polizie di Parigi, Berlino, Madrid indicano che lì hanno trovato ospitalità i neri scesi in città per un pomeriggio di devastazione. L'indicazione è esatta. La perquisizione mette le mani su un piccolo quanto significativo arsenale: maschere antigas, petardi, bombe carta, caschi integrali, martelli da scasso. Vengono identificati e denunciati a piede libero 6 cittadini italiani. La legge non ne consente né il fermo né l'arresto, e 20 stranieri. Sono tutti senza documenti, perché tutti in Europa sanno che se si vuole venire a fare un po' di casino in Italia, la prima regola è mettersi nelle condizioni di non essere identificati. 13 parlano francese, altri tedesco. I tedeschi hanno un problema in più. Nella macchina con cui hanno raggiunto Milano, trasportano un singolare bagaglio a mano, 2 taniche di benzina, decine di stoppini per Molotov, 2 mazze con anima d'acciaio. Il proprietario della macchina viene arrestato. Per i suoi compagni di viaggio, insieme ai 13 francesi, viene chiesta l'immediata espulsione dal paese. Il tempo a disposizione per decidere è 12 ore, che passeranno inutilmente. Il consolato francese a Milano, decisivo per l'identificazione dei fermati, lascia che il tempo trascorra senza offrire una sola indicazione. Un giudice di pace non convalida né i fermi né i provvedimenti di espulsione. Francesi e tedeschi tornano a piede libero il giorno stesso del loro fermo, il 29 aprile, secondo giorno di perquisizioni. Vengono visitati altri 4 immobili occupati e anche questa volta la pesca è a colpo sicuro. Viene trovato il solito armamentario da casseur, caschi, mazze di legno, filtri antigas. 9 italiani vengono denunciati a piede libero e rispediti nei comuni di residenza con foglio di via obbligatorio. Ma la sorpresa, diciamo così, è che in un grottesco gioco di guardie e ladri, con loro, vengono trovati gli stessi 3 tedeschi per i quali, poche ore prima, non era stata convalidata l'espulsione. La sera di quello stesso giorno, ancora un fermo. Ancora dei tedeschi. Su un furgone, 3 ragazzi trasportano 50 bombolette di vernice spray e dei passamontagna. Anche per loro viene chiesta l'espulsione. E anche per loro l'espulsione non verrà convalidata dal giudice di pace. Siamo semplici writers, dicono. Vengono creduti sulla parola. Ne va peggio a 2 francesi che il 29 sera, durante un controllo, vengono trovati con 2 coltelli, taniche di benzina vuote in macchina e stoppini per Molotov. O al francese e all'inglese che, non lontano da via Solferino, girano in macchina con un po' di mazze da baseball. Per tutti, una denuncia a piede libero è un invito ad allontanarsi dal paese. Un invito, che evidentemente non deve essere troppo convincente, visto che il 30 mattina, durante una terza perquisizione, questa volta nelle case Haller di via De Pretis, altri 10 neri, 8 italiani e 2 spagnoli, vengono trovati con la loro collezione di mazze: 70 di legno, 10 di ferro, 8 caschi integrali, 2 estintori e 2 coltelli. Sostengono fonti qualificate di polizia che i francesi graziati il 28 aprile siano stati rivisti in piazza il pomeriggio del 1 maggio per fare il lavoro per cui erano scesi in città. Queste le parole di Carlo Bonini, che sulla Repubblica del 3 maggio spiega come i Black Bloc fossero stati denunciati e rilasciati nei giorni precedenti alla devastazione del 1 maggio. Che molti no global fossero arrivati a Milano con l'intenzione di commettere violenze lo dimostra anche il fatto che alcuni di loro avessero un avvocato al seguito. Ecco il racconto di Gianni Santucci sul Corriere della Sera. Joseph L., che non vive in Italia e dunque ha scarse conoscenze a Milano, non compare davanti al giudice con un difensore d'ufficio, come sarebbe prevedibile. Si fa invece assistere da un avvocato di fiducia e, guarda caso, è proprio uno dei legali nominato da molti degli anarchici milanesi, francesi e tedeschi, trovati dalla Digos nelle case occupate del Giambellino e nei ritrovi in Notav di zona McMahon tra il 28 e il 30 aprile. La coincidenza, niente di illecito, sia chiaro, non è però casuale. Vuol dire che quello stesso giro di neri ha suggerito l'avvocato anche al ragazzo inglese. Sono un gruppo di avvocati uniti sotto il nome di Legal Team. Prima del corteo degli studenti del 30 aprile e della May Day Parade del 1 maggio degenerata in guerriglia urbana, avevano inviato una lettera al prefetto con quattro richieste, compresa questa: diritto di accesso nei luoghi in cui fossero trattenute persone in stato di arresto, di fermo o comunque per controlli o identificazione personale. C'era necessità di una richiesta del genere? Il codice di procedura penale stabilisce il diritto all'incontro con un avvocato dopo un arresto o un fermo. Ma poi, come si faceva a sapere in anticipo che durante le manifestazioni sarebbero stati commessi reati? Al 1 maggio i legali erano ben visibili. Con indosso la pettorina seguivano i manifestanti, così vicini da essere in tempo reale al fianco di uno bloccato da un poliziotto, il quale, come è successo in via Guido d'Arezzo, ancora era impegnato nell'azione fisica del fermo, da venir raggiunto dai legali e interrogato sul perché della sua condotta. Diverse le reazioni dopo la devastazione di Milano. C'è chi ha minimizzato, come Fabio Fazio, che la sera successiva, a Che tempo che fa, ha dichiarato: qualcuno ha parlato di devastazioni. Adesso voglio dire, per fortuna, grazie alle forze dell'ordine, è stato tutto misurato e circoscritto, anche se le immagini erano orrende. Dalle pagine del giornale, invece, il direttore Alessandro Sallusti ipotizza l'esistenza di una trattativa tra Stato e Black Bloc per cercare di contenere i danni. La verità non la sapremo mai, perché in questi casi la verità può essere indicibile. C'è stata una trattativa tra Stato e Black Bloc per evitare che una tragedia macchiasse in modo indelebile Expo 2015, pregiudicandone il successo? In altre parole, lo Stato ha permesso che una banda di delinquenti mettesse a ferro e fuoco un quartiere di Milano, ottenendo in cambio che nessuno si facesse davvero male e che la cosa finisse lì? È molto probabile, direi praticamente certo, riavvolgendo il film degli scontri di venerdì pomeriggio. Per capirci meglio, le forze dell'ordine eseguono gli ordini alla lettera. Se la disposizione è di menarle di santa ragione, loro menano. Se l'ordine è di prenderle, loro le prendono. Se c'è da arrestarne 100, 100 saranno. Se per salvare la faccia basta ammanettarne 5, dico 5, come è accaduto venerdì, i primi 5 pirla finiscono in questura e lì finisce. Morale, il ministro degli interni fa la figura dell'incapace, cosa che gli riesce bene a prescindere, ma salva il posto. Regione e comune si affrettano a dire che pagheranno i danni a cittadini e commercianti che hanno subito danni. 48 ore di bailam e di sdegno su giornali e TV e poi è tutto dimenticato. Ma soprattutto l'Expo è salvo. E scommetto, per i prossimi 6 mesi nulla più accadrà di sconveniente o grave, almeno su questo fronte. Tecnicamente tutto questo si chiama ragione di Stato, cioè tutelare un presunto interesse superiore. Non è un male assoluto. È che questo Stato ha abbassato di molto l'asticella della ragione. La sindrome G8 di Genova, con tutto quello che ne è derivato, ha indebolito i concetti di diritto e di difesa. Guai se un no global finisce all'ospedale dopo che la polizia italiana è stata bollata come torturatrice della Corte europea. Meglio rischiare che la testa se la spacchi un poliziotto o un cittadino. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Alessandro Sallusti, La trattativa Stato Black Bloc, dal giornale del 3 maggio. Siamo abituati a immaginare i filosofi del passato chiusi nel loro mondo e assorti in ragionamenti concettuali e complessi. Difficilmente li pensiamo in balia degli effetti della cannabis, come sballoni un po' freak. Eppure nel 1932 i due tedeschi Ernst Bloch e Walter Benjamin, pensatori rigorosissimi e sistematici, si offrirono volontari per esperimenti sull'hashish, con esiti in parte divertenti. Il primo credette di essere Rasputin, consigliere privato dello zar Nicola II di Russia. Benjamin immaginò invece di partecipare a un colloquio tra Petrarca e Dante, mettendosi a parlare in italiano. In realtà il loro obiettivo non era sballare, ovviamente. Volevano piuttosto condurre un'indagine conoscitiva complessa sull'impatto che le droghe avevano sulla psiche. Walter Benjamin, in particolare, trascrisse poi sotto forma di flussi di coscienza i verbali degli esperimenti fatti, successivamente pubblicati in volume. E quello che avete ascoltato era l'articolo Fumate filosofiche, da Focus Storia di maggio.